nobile, qual piuma al vento muta d'aceto e di pensiero. Sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, ma più mal vento, muta d'aceto e di pensier. Yeah.